Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Cosa siamo disposti a fare per avere un tenore di vita migliore? A quali compromessi possiamo scendere per migliorare il nostro conto in banca o la nostra ascesa sociale? Ma soprattutto, è così importante avere sempre più soldi nella vita? Cioè, i soldi fanno o non fanno la felicità? Poi ognuno dica la sua. La mia è che non la fanno, cioè il diagramma della mia esistenza e del mio conto in banca e della mia felicità sono sempre stati divergenti, cioè non ho mai trovato un nesso tra le due cose. Oggi noi raccontiamo la storia di una persona che ha vissuto per molti anni un esperimento sociale da cui ha tratto un enorme vantaggio a livello spirituale, ha fatto un cambio radicale nel suo stile di vita, una scelta che molti potrebbero considerare un'utopia, ma che invece ha permesso a una donna di vivere 16 anni senza utilizzare denaro e, a suo dire, di essere felice. Questa è la storia di Heidemarie Schwärmer. È una storia che inizia nel lontano 1944 in Prussia, in quei territori che si affacciano sul Mar Baltico, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono ancora Germania, poi vengono rapidamente conquistati dall'armata russa che avanza verso Berlino, e lei, Heidemarie, una bambina, si trova su un treno che la trasporta lontano dalla sua casa per trasferirsi come tanti altri profughi nella Germania settentrionale. Siamo arrivati in Germania come rifugiati, ma prima eravamo una famiglia di classe medio-alta. Mio padre aveva una torrefazione e avevamo una governante e un giardiniere. Stavamo bene, ma quando siamo scappati siamo arrivati in Germania come dei poveracci. Eravamo molto poveri all'epoca, abbiamo anche sofferto la fame. Poi mio padre ci trovò una casa più grande e aprì una fabbrica di tabacco. Così diventammo di nuovo ricchi e per questo la gente ci criticava. Nella mia vita ho sempre dovuto giustificarmi, da povera e da ricca. È una cosa strana. Da povera o da ricca. E infatti il padre in Prussia aveva una torrefazione, riesce a riprendersi economicamente, la famiglia recupera il tenore di vita che aveva perso con gli stenti della guerra, un trauma che molte famiglie hanno vissuto. Heidemarie è una di questi bambini e figli di queste famiglie che devono fare i conti con il denaro e con la sua importanza fin da subito, bambini che capiscono quanto il denaro possa cambiare la vita. E lei da adolescente frequenta il collegio, anni spensierati che lei vive in modo positivo, c'è un benessere interiore che si riflette anche sulla sua salute, cioè lei comincia a accorgersi di ammalarsi di rado quando è felice. E prima di iscriversi all'università, dove si specializza in psicoterapia, la Schwärmer compie un viaggio in Sud America, prima in Brasile, dove rimane colpita dalle immagini di divertimento che esplodono nel periodo del carnevale, e però anche dal grande contrasto che c'è in Brasile tra i ricchi e quelli che vivono nelle favelas, perché soprattutto in città come San Paolo, ve lo posso testimoniare, la convivenza è proprio stridente. A decine di metri ci sono le favelas e le ville dei ricconi. E dopo il Brasile si va in Cile, dove Heidemarie Schwärmer incontra l'amore, si sposa, mette su famiglia, sposa un pittore che la introduce al mondo dell'arte. Il matrimonio non dura e lei si ritrova di nuovo in Germania con due figli piccoli da crescere. Insomma, sacrifici, lavoro e una vita intera a tenere sempre d'occhio il conto in banca. Però nella sua testa sta germogliando un'idea. L'idea è che per tirare avanti bisogna cercare il conforto delle persone vicine e che dal conforto deriva l'aiuto, la cooperazione. L'unione fa la forza. Lei, Heidemarie Schwärmer, ha in mente di creare una comunità legata dall'interesse per l'arte in cui artisti estranei tra loro possano condividere le loro idee, le loro conoscenze artistiche in un dare e avere che può accrescere tutta la comunità. È un primo esempio di cooperazione da cui nasce una casa dell'arte che diventa un punto di riferimento nella zona di Dortmund dove Aida Marie si è stabilita. Tutti quelli che partecipano a questa piccola comunità artistica traggono un beneficio l'uno dall'altro. La Schwärmer e i suoi figli sono quelli che più di tutti ricevono un guadagno da questo esperimento. Però attenzione, non è un guadagno monetario, è un guadagno psicologico, un guadagno di relazione. L'entrare in contatto con persone che condividono idee, scambiano la loro visione del mondo e questo diventa un accrescimento da cui in futuro lei trarrà la forza per realizzare i suoi progetti. Voglio allontanarmi dalla competizione e andare verso la cooperazione. Il falco e il gabbiano. Aida Marie Schwärmer si laurea in psicologia, diventa psicoterapeuta e questo lo fa anche per affrontare le difficoltà che il figlio ha quando deve approcciarsi alla scuola superiore. Insomma, un adolescente molto molto difficile che spinge la madre verso una crescita interiore e nelle lunghe sedute di terapia che lei affronta anche col figlio lei si trova a autopsicanalizzarsi, trova risposte a una situazione di disagio che lei si porta dietro dall'infanzia. È sempre in bilico tra la paura di cadere nella povertà e la difficoltà di relazionarsi col mondo che la circonda. Lei ricorda un esempio che i suoi professori facevano all'università, due bambini che vengono scambiati nella culla, che crescono in ambienti opposti, uno in una famiglia distinta, l'altro in una famiglia di delinquenti, e l'ambiente influisce sui comportamenti dei bambini, ma questa è una teoria insomma che viene anche confutata. Io credo a questa teoria, ma secondo la Schwärmer ognuno è padrone del suo destino, crescere in un ambiente protetto non impedisce di scatenare comportamenti opposti a quello che il destino sembra avere scritto per ognuno di noi. Con questa convinzione lei decide di cambiare, di inseguire uno stile di vita ideale che la porti a separarsi gradualmente dal possesso delle cose materiali, soprattutto dalla oppressione del denaro che per lei modifica i comportamenti che rende le persone schiave. Qual è il mio compito qui sulla Terra? Il modo in cui vanno le cose oggi non funziona e la maggior parte della gente ormai lo sa. Il mio scopo è di coinvolgere più persone. Questo non significa dire a tutti eliminate i soldi. Lo scopo è dimostrare che è possibile per tutti vivere in modo più semplice. Cosa sempre più difficile. Ma lei a 52 anni, cioè nel 94, ha il primo vero colpo d'ala perché fonda a Dortmund la prima centrale del dare e avere. È un circuito di persone che periodicamente si incontrano per scambiare le proprie cose, è un ritorno al baratto che serve per sopperire ai bisogni di ognuno e contemporaneamente crea un'educazione a non dipendere dal denaro. Quando ho cominciato con un gruppo di baratto a Dortmund, ogni domenica facevamo un mercato di scambio. Tutti portavano quello che non serviva più e lo mettevano su un tavolo. Poi ognuno poteva scegliere quello che gli serviva. L'idea viene da un paesino del Canada dove c'era una sola fabbrica che forniva lavoro alla maggior parte degli abitanti del paese e che fallisce. Quindi le persone sono costrette a organizzarsi in una sorta di cooperazione solidale in cui ognuno offre alla comunità quello che può, cibo, vestiti, ma anche lavoro, servizi. Questo è il punto di partenza di Aida Marie Schwärmer, un gruppo di persone che si mettono a disposizione della comunità relazionandosi tra loro. E nella centrale del dare e avere viene tenuto un registro degli scambi, chi sa fare un lavoro si offre per aiutare gli altri e in cambio magari riceve cibo, vestiti, insomma crediti e debiti vengono compensati senza l'utilizzo del denaro che diventa superfluo. Forse è un sogno, ma comunque è un esperimento sociale in cui ognuna delle persone coinvolte recupera se stessa e il proprio personale rapporto con la società che la circonda. Se tutto rimane così com'è, con gente avida e possessiva che pensa che il prestigio derivi da ciò che possiede. Finché questo resta così, non funzionerà. Questo sistema è destinato a collassare. Qualcosa deve cambiare. È ora il momento per cominciare a fare questo cambiamento. Und darum renne ich immer rum und erzähle den Leuten, fang doch schon mal an. Eh sì, mi ricordo che qualcuno ha detto che noi compriamo cose che non ci servono, che magari non ci possiamo neanche permettere, solo per fare colpo su persone che non stimiamo neanche. Questa è un po' la deriva alla quale stiamo andando incontro. Ma andiamo avanti con la nostra protagonista, che ha un secondo colpo d'ala, quello definitivo, perché lei si rende conto che la sua vita non è ancora arrivata a quel punto di rottura che può permetterle di risolvere i suoi dissidi interiori, e accade un fatto che le apre gli occhi, la porta verso la più grande scelta della sua vita. Una delle persone che frequentano la centrale di scambio deve partire per un viaggio che la terrà lontana da casa sua per 3 mesi. Bene, Aide Maria è una persona fidata, le viene chiesto di fare da custode a questa casa, di pulire di tanto in tanto, di innaffiare le piante, di raccogliere la posta. Insomma, deve vivere in questa casa per 3 mesi come fosse la sua. E questa per lei è l'occasione che attendeva da molti anni. Quando una signora decise di andare in America, per 3 mesi, mi sono detta, è arrivato il momento, adesso lo faccio. Voleva che vivessi nel suo appartamento per quei 3 mesi e così ho fatto, ho regalato tutto. Dopo aver svuotato il mio appartamento facevo i salti di gioia. Forse la gente non può capire perché desidera accumulare, ma per me fu fantastico, fu come eliminare una zavorra. Aber ich fand es einfach, diesen ganzen Ballast weg, war toll. Questo è già più difficile però, perché non si tratta di accumulare, si tratterebbe di regalare i tuoi CD, i tuoi libri, i tuoi album di figurine Panini. Insomma, questa è dura, io non ce la farei. Ma torniamo a lei, che con la centrale di scambio si è occupata diverse volte di aiutare altre persone, magari per 1 o 2 giorni, occupandosi della casa, portando fuori il cane, innaffiando le piante. Insomma, la centrale peraltro sviluppa un sistema basato sulla fiducia. Ci sono molte persone che conoscono Aida Marie e quindi persone che le lascerebbero senza paura le chiavi di casa. Così lei compie il suo colpo d'ala. Ha 54 anni, parte per lei la sua nuova vita, che la porta addirittura a liberarsi da tutti i suoi averi, le sue proprietà. Regala tutto, decide di intraprendere una vita totalmente priva di soldi, e rimane da vedere se questo può essere un sogno, un'utopia di breve durata, come dire una fase terapeutica della propria vita, oppure un reale cambiamento della tua esistenza. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando questa storia strana, spiazzante, la storia di Aida Marie Schwärmer, una signora di mezza età tedesca che a Dortmund nel 94 ha creato una centrale di scambio, una comunità i cui membri utilizzano il baratto per avere quello di cui ognuno ha bisogno, offrendo altre cose, servizi, lavoro, assistenza. È un esperimento sociale che per lei 2 anni dopo si evolve con una decisione ancora più drastica: vivere la vita senza utilizzare denaro, rinunciando a ogni cosa, alla macchina, all'auto, ai vestiti, al cibo. Lei non possiede più nulla, ma non le manca niente, perché scambiando il suo lavoro, interagendo con altre persone che condividono questo progetto, riesce a avere tutto ciò di cui ha realmente bisogno. Io non ho un mio appartamento, è stata la prima cosa che ho lasciato. Di solito vivo con altre persone. Per un anno mi sono presa cura di case altrui e al momento vivo con altri e cerco di diffondere le mie idee. Questo non ha nulla a che vedere con l'avere o non avere soldi, ma con la domanda: come voglio veramente vivere? Wie will ich wirklich leben? È dura, perché poi devono essere tutti d'accordo, perché se no tu entri e dici voglio un caffè e quello ti dice ok, dammi un euro. Però comunque lo stile di vita della Schwärmer non è quello di una mendicante, non è una senza fissa dimora che vive di elemosine. Lei è una conosciuta, è una persona fidata, la gente le affida la custodia della propria casa quando va in vacanza o si allontana per lavoro, chiede piccoli lavori, lei si fa pagare con cibo, vestiti, scarpe e poi tutto quello che è superfluo lei lo regala di nuovo, lo rimette a disposizione della comunità attraverso la sua rete di relazioni, che peraltro aumenta di giorno in giorno, perché sono in molti ad apprezzare questa scelta coraggiosa e tutti la sostengono come possono, contribuendo, no? A mantenere solido quel circuito di scambio che lei ha creato. Molte persone pensano che la mia vita sia complicata perché io debba preoccuparmi di chissà che cosa, ma io non mi preoccupo di nulla. Ogni piccolo passo nel lasciare andare le cose mi rende più libera. Beh, è una visione romantica della vita che sconfina nell'utopia, sicuramente, però lei ha trovato una risposta alle sue domande, alla sua ansia di non riuscire a vivere in pace con se stessa in una società schiava del consumismo. È una scelta radicale e che sembra destinata a non essere di breve durata, perché lei dopo il primo anno, che magari è probabilmente è il più difficile, vive senza utilizzare soldi, quindi sicuramente ha dei momenti anche di sconforto, magari anche di fame, di difficoltà, però sta cominciando a far parlare di sé. Le televisioni, le radio, le scuole si interessano al suo caso, tutti la vogliono aiutare, le fanno donazioni, anche donazioni in denaro, che lei ovviamente prontamente regala a sua volta. Però comincia a ricevere inviti in varie parti del paese per tenere conferenze, per raccontare la sua strana proposta di vita, e lei accetta perché ha voglia di parlare di questa sua, come dire, terapeutica utopia. A volte la gente mi chiede che cosa farò quando sarò vecchia e io rispondo che sono già vecchia e mi diverte vivere così. Ad altre persone della mia età piace stare sedute in giardino, a me invece piace andare in giro. E da quel 96 in avanti lei vive la sua vita normalmente, ha sempre un tetto per dormire, mangia regolarmente, viaggia, si diverte, conosce persone, tutto senza spendere un soldo. È perché la rete di cooperazione che ha creato conta prima decine di persone, poi centinaia, e poi aumentano sempre, poi arrivano le interviste sempre più numerose sia in radio che in televisione, anche se lei non ama molto apparire, perché ha capito che anche la fama è un aspetto che condiziona la vita e la libertà dell'anima e dell'intelletto. La televisione per me è sempre una cosa difficile. Quando devo andare in TV sono sempre molto nervosa e spesso piango la sera prima perché non mi reggono i nervi, ho paura di fare una figuraccia. Anche perché le interviste vertono sempre sulle stesse domande: dove dorme, cosa mangia, come si veste, come si cura. E per lei è difficile dare delle risposte chiare, perché è chiaro che è una vita in cui si naviga un po' a vista. È una vita nata da un desiderio fortissimo di vivere in libertà senza essere obbligati a seguire comportamenti stereotipati dettati dal denaro. In questo lei, insomma, ha uno spirito che potremmo definire un po' punk. Non accetta convenzioni, si ribella a tutto ciò che è democraticamente imposto, preordinato dagli altri. Questo è il suo insegnamento di vita, forse estremo, però magari qualche giornata fatta alla Heidemarie Schwärmer la dovremmo fare tutti. Questo non ha niente a che fare con ricevere un panino gratis con cui riempirsi lo stomaco. Riguarda qualcosa di fondamentale. Spesso mi invitano in posti dove mi chiedono: ma io cosa posso fare? E io non ho una risposta chiara. Dico sempre: è la tua vita e devi prendere le tue decisioni. Non copiare me. Ma da qualche parte bisogna incominciare. E allora io dico: perché non provare semplicemente come ci si sente senza soldi? Come mi sento io se esco da queste strutture rigide e entro in qualcosa di nuovo? E certo, però è difficile, perché se uno quel giorno ti offre un panino e tu avevi voglia di salmone, ecco che crolla un po' tutto. Però probabilmente questo è il modo quantomeno per rimuovere i problemi gravi che lei aveva per quella, come dire, altalena economico interiore che ha vissuto diventando povera e ricca e poi povera e poi ricca. Comunque lei scrive un libro, Vivere senza soldi, edito da Terra Nuova, un libro che ha successo, lei fa tante presentazioni, viene tratto anche un docufilm che si può vedere anche su internet, naturalmente gratuito, e tutti i diritti derivanti dalle vendite del libro vengono indirizzati alla centrale del dare e avere, che utilizza quei soldi per migliorare le strutture d'aiuto, per finanziare progetti di cooperazione. Per molti rappresento una protesta, ma per altri sono una risposta. Penso di star piantando dei piccoli semi e forse tra 10 anni qualcuno dirà: ricordi che lei ne aveva parlato? Forse per 100 persone ci vuole più tempo perché i semi crescano. Poi arriva il momento in cui i nodi vengono al pettine, perché Heidemarie Schwärmer si ammala, e qui si torna alla frase che io dico sempre: è vero che i soldi non servono a niente, non servono a niente a meno che tu non ti ammali, perché quando stai male, allora, quando ti devi operare, quando hai problemi di ricoveri e cose del genere, allora i soldi servono. E infatti quando lei si ammala, insomma, comincia a accettare qualche compromesso per curarsi. Poi nel marzo del 2016 la sua battaglia con la malattia è persa e lei muore. La natura fa il suo corso, però il suo messaggio non è andato perduto, perché la centrale del dare e avere continua a lavorare, continua a aiutare tutti quelli che vogliono fare qualcosa di diverso con la loro vita, vogliono provare a allontanarsi dal legame che tutti abbiamo in maniera compulsiva con il denaro. Noi studiamo, lavoriamo, soffriamo per pochi motivi, alcuni non si possono dire, uno è sicuramente l'accumulo di denaro. Il mondo così com'è, non riesco a sopportarlo. Penso che i soldi, ma non solo i soldi, non solo la carta, le monete, penso che la logica del denaro abbia contribuito alla situazione presente. Uscire da questa situazione non è facile. Il denaro ci distrae da ciò che è importante: la solidarietà, l'altruismo, agire col cuore, senza pensare a cosa si riceve in cambio. Bisogna fare punto e a capo. Ora arriva qualcosa di nuovo. Allora sì che non avremo più bisogno di soldi. Forse suona troppo semplice, idealistico o romantico, ma io ci credo. Ne sono convinta al 100%, perché la vita può essere molto, molto più semplice di quella che viviamo. Se qualcuno di voi è interessato a approfondire questa filosofia, vi consigliamo di leggere Le teorie dell'economia del dono. È un libro di un sociologo francese, si chiama Marcel Mauss, si scrive. Se volete saperne di più, però, Wikipedia oggi, insomma, ci giunge in aiuto. È l'esempio più lampante del concetto di condivisione senza pretendere un compenso per ciò che si offre. Ci sono altre persone che, come Heidemarie Schwärmer, hanno fatto scelte di vita così drastiche che hanno abbandonato tutto per vivere senza dipendere da quello che è legato alla società del consumismo. Noi siamo partiti con una catena terribile che non fermeremo mai, perché ogni volta che noi diciamo mi voglio tenere questo maglione ancora 2 anni invece che comprarne un altro, in qualche modo danneggiamo l'operaio che sta facendo il maglione. Rischiamo che uno perda il posto di lavoro, quindi siamo tutti dentro a una catena terribile che è difficile spezzare. Eppure ci sono delle persone che magari che hanno scelto di vivere da eremiti, che sono andati verso forme di religione forse più simili alla New Age. Però comunque la grande famiglia creata da Heidemarie Schwärmer continua a esistere malgrado sia venuta a mancare la sua fondatrice. Di lei rimangono le sue parole a testimonianza di un'idea in cui ha creduto in un modo fermo e deciso, e che le ha dato la forza di superare tutte le difficoltà, che comunque su di lei ha funzionato, cioè lei sicuramente ha vissuto meglio così. Posso sopportare che la gente mi dica che sono matta, stupida o qualcos'altro, ma quando trovo qualcuno che mi capisce, sono veramente felice. Certo, imitarla in maniera così pedissequa è quasi impossibile, però forse tutti noi dovremmo dare alla nostra vita un po' di inversione di tendenza per quanto riguarda il rapporto che abbiamo con i soldi. Heidemarie Schwärmer ci ha provato, lei è stata felice, i suoi colpi d'ala l'hanno portata a vivere meglio. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se conoscete anche voi una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui social della radio, della trasmissione, insomma se volete lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.